6D. Ascolta e trasforma. Aldo sentirà freddo. Aldo e Stefania sentiranno freddo. Paola eseguirà l'esercizio. Paola e Luisa eseguiranno l'esercizio. Elena seguirà i tuoi consigli. Elena e Anna seguiranno i tuoi consigli. Ettore partirà domani. Ettore e Lina partiranno domani. Gisella non aprirà a nessuno. Gisella e Giada non apriranno a nessuno. Umberto non sfuggirà ai controlli. Umberto e Sergio non sfuggiranno ai controlli. Maddalena non mentirà. Maddalena e Carlo non mentiranno. Pino non offrirà la cena. Pino e Anna non offriranno la cena.